Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. La mattina erano entrati nella stanza per portare a Milady la colazione. Ella aveva quindi pensato che di lì a poco sarebbero venuti a sparecchiare e allora avrebbe riveduto Felton. Non si ingannava. Il giovane ricomparve e, senza badare se Milady avesse o no toccato il cibo, fece un cenno perché la tavola, che di solito veniva portata lì apparecchiata, fosse rimossa dalla stanza. Felton rimase ultimo. Teneva in mano un libro. Milady, sdraiata in una poltrona accanto al caminetto, pallida e rassegnata, pareva una vergine santa in attesa del martirio. Felton le si avvicinò e disse: «Lord Winter, che è cattolico come voi, signora, ha pensato che possa riuscirvi penosa la privazione dei riti e delle cerimonie della vostra religione. Acconsente pertanto a che leggiate ogni giorno l'ordinario della vostra messa, ed ecco un libro che ne contiene il rituale». L'espressione con la quale Felton depose il libro sul tavolino accanto a lei, il tono con cui egli pronunziò le due parole «vostra messa», il sorriso sdegnoso che le accompagnava, fecero sì che Milady alzasse la testa e guardasse più attentamente l'ufficiale. Allora, dalla pettinatura severa, dalla divisa di una semplicità esagerata, dalla fronte liscia come il marmo, ma al pari di questo dura e impenetrabile, riconobbe uno di quei tetri puritani da lei tanto sovente incontrati alla corte del re Giacomo o a quella del re di Francia, dove, nonostante il ricordo della notte di San Bartolomeo, venivano talvolta a chiedere asilo. Ebbe pertanto una di quelle subitanee ispirazioni che vengono soltanto ai geni nelle grandi crisi, nei momenti supremi e decisivi per il loro destino o per la loro vita. Quelle due parole, «vostra messa», e una semplice occhiata lanciata a Felton le avevano infatti rivelato tutta l'importanza della risposta che stava per fare. Ma con la prontezza d'intuito che le era propria, la risposta le si presentò alle labbra già formulata. «Io», disse con un tono di sdegno all'unisono con quello che aveva notato nella voce del giovane ufficiale, «io, signore, la mia messa. Quel corrotto cattolico di Lord Winter sa bene che non appartengo alla sua religione e vuole tendermi un tranello». «E a quale religione appartenete, signora?» domandò Felton con uno stupore che, nonostante la padronanza di sé, non poté nascondere del tutto. «Lo dirò», esclamò Milady con finta esaltazione, «il giorno in cui avrò sofferto abbastanza per la mia fede». Lo sguardo di Felton svelò a Milady quali prospettive ella si fosse aperta con quella sola frase. Tuttavia il giovane ufficiale stette muto e immobile, lo sguardo soltanto aveva parlato. «Sono nelle mani dei miei nemici», ella continuò con quell'accento entusiasta che sapeva familiare ai puritani. «Ebbene, che il mio Dio mi salvi, o che io perisca per il mio Dio. Ecco la risposta che vi prego di fare a Lord Winter. E in quanto a questo libro», aggiunse, mostrando il rituale con la punta del dito, ma senza toccarlo, come se il contatto dovesse contaminarla, «potete riportarlo via e servirvene voi stesso, perché senza dubbio siete doppiamente complice di Lord Winter, complice nella persecuzione, complice nell'eresia». Felton non rispose sillaba. Prese il libro con lo stesso senso di avversione già prima manifestato e si ritirò come riflettendo fra sé e sé. Verso le 5 di sera si presentò Lord de Winter. In tutta la giornata Milady aveva avuto tempo di studiare un piano di condotta. Lo ricevette come una donna che sia pienamente padrona di se stessa. A quanto pare, cominciò il barone, sedendo in una poltrona di fronte a quella occupata da Milady, allungando con indolenza i piedi sul caminetto, a quanto pare abbiamo fatto una piccola apostasia. Che intendete dire, signore? Intendo dire che dall'ultima volta che ci siamo veduti abbiamo cambiato religione. Avreste per caso sposato un terzo marito protestante? Spiegatevi, milord, rispose la prigioniera con alterezza, perché vi dichiaro che odo le vostre parole, ma non le capisco. Allora non avete religione di sorta, lo preferisco, ribatté sghignazzando Lord Winter. È certo che questo è più conforme ai vostri principi, replicò freddamente Milady. Oh, rispose Lord Winter, vi confesso che mi è assolutamente indifferente. Anche se non ammetteste tale indifferenza in fatto di religione, milord, ne farebbero fede le vostre dissolutezze e i vostri misfatti. Lord Winter disse, parlate di dissolutezze? Signora Messalina, parlate di misfatti? Lady Macbeth? O io ho udito male, o per Dio siete ben spudorata. Rispose freddamente Milady, parlate così perché sapete che ci ascoltano, signore, e perché volete mettermi contro i vostri carcerieri e i vostri carnefici. I miei carcerieri, i miei carnefici, perbacco, signora, adottate un tono poetico e la commedia di ieri volge stasera alla tragedia. Ma in ogni caso fra 8 giorni sarete dove dovete essere e il mio compito sarà terminato. Compito infame, compito empio, ribatté Milady con l'esaltazione della vittima che provoca il giudice. In fede mia, disse De Winter alzandosi, credo che questa briccona stia impazzendo. Su, su, calmatevi, signora puritana, o vi faccio mettere in segreta, per Dio. È il mio vino di Spagna che vi dà la testa, non è vero? Ma state tranquilla, quell'ubriachezza non è pericolosa e non avrà conseguenze. Lord de Winter si ritirò imprecando, secondo un'abitudine molto diffusa tra i gentiluomini del tempo. Felton, infatti, stava dietro la porta e non aveva perduto una parola di tutta la scena. Milady aveva colto nel segno. Tornò il silenzio. Trascorsero 2 ore. Venne portata la cena e Milady fu vista intenta a recitare ad alta voce le sue preghiere. Preghiere che aveva imparate da un vecchio servitore del suo secondo marito, rigidissimo puritano. Sembrava in estasi, né parve prestare attenzione a ciò che succedeva intorno a lei. Felton ordinò con un cenno che non la disturbassero e quando tutto fu sistemato, uscì in silenzio con i soldati. Milady sapeva che potevano spiarla. Seguitò pertanto fino alla fine le preghiere e le parve che la sentinella di fazione alla porta avesse smesso di camminare come prima e stesse in ascolto. Per il momento questo le bastava. Ella si rialzò, si mise a tavola, mangiò poco e beve solo acqua. Dopo un'ora vennero a portare via la tavola, ma Milady notò che stavolta Felton non accompagnava i soldati, segno che temeva di vederla troppo sovente. Milady si volse alla parete per sorridere, perché in quel sorriso c'era una tale espressione di trionfo che questa sola l'avrebbe denunziata. Lasciò ancora trascorrere una mezz'ora, e poiché in quel momento tutto nel vecchio castello taceva, poiché non si udiva che l'eterno rumoreggiare delle onde, quasi un immenso ansito dell'oceano, con la sua voce limpida, armoniosa, vibrante, intonò la prima strofa del salmo allora preferito dai puritani. Signore, tu ci abbandoni per vedere se siamo forti, ma poi tu solo doni con la celeste tua mano la palma ai nostri sforzi. Non erano versi eccellenti, tutt'altro, ma come sappiamo i protestanti non si piccavano di poesia. Mentre cantava, Milady stava in ascolto. Il soldato di guardia alla porta si era fermato come se si fosse tramutato in pietra. Milady poté quindi rendersi conto dell'impressione che aveva suscitato. Allora continuò il canto con un fervore, un sentimento inesprimibili. Le parve che i suoni si diffondessero lontani sotto le volte e come un magico incantesimo addolcissero i cuori dei suoi carcerieri. Tuttavia il soldato di sentinella, certo fervente cattolico, parve scuotere da sé la malia, perché attraverso la porta disse: «Ma tacete, signora! Il vostro canto è triste come un De Profundis, e se oltre al piacere di essere di guarnigione qui dobbiamo ascoltare cose del genere, non si potrà resistere». «Silenzio!» disse allora una voce grave, che Milady riconobbe per quella di Felton. «Di che vi impicciate, birbante? Vi hanno forse ordinato di impedire a questa donna di cantare? No, vi hanno detto di sorvegliarla, di spararle addosso se tentasse di fuggire. Sorvegliatela. Se fugge, uccidetela. Ma non cambiate di vostro arbitrio la consegna». Il viso di Milady si illuminò di una indicibile espressione di gioia. Ma tale espressione fu fuggevole come il bagliore di un lampo, e come se non avesse udito il dialogo di cui non aveva perduto una sillaba, ricominciò a cantare, mettendo nella voce tutto il fascino, tutto il vigore, tutta la seduzione di cui il demonio l'aveva dotata. La mattina Felton venne come d'abitudine, ma Milady lasciò che dirigesse tutti i preparativi della colazione senza rivolgergli la parola. Nel momento in cui si ritirava, Milady ebbe un barlume di speranza. Credette, infatti, che lui stesse per parlare, ma le labbra si mossero senza che alcun suono gli uscisse di bocca e, con uno sforzo su se stesso, egli richiuse nel suo cuore le parole che stavano per sfuggirgli dalle labbra e uscì. Verso mezzogiorno entrò Lord de Winter. Era una giornata d'inverno abbastanza bella, e un raggio di quel pallido sole d'Inghilterra che illumina ma non riscalda passava attraverso le sbarre della prigione. Milady guardava dalla finestra e finse di non sentire che la porta si apriva. «Allora», disse Lord Winter, «dopo aver recitato la commedia, dopo aver recitato la tragedia, siamo passati alla malinconia». La prigioniera non rispose. «Sì, sì», continuò Lord Winter, «capisco. Vorreste essere in libertà su quella riva. Vorreste, su una buona nave, fendere i frutti di questo mare verde come lo smeraldo. Vorreste, sulla terra o sull'oceano, tendermi una di quelle belle imboscate che sapete così ben preparare. Pazienza! Fra 4 giorni la riva vi sarà concessa, il mare vi sarà aperto, più aperto di quanto vorreste, perché fra 4 giorni l'Inghilterra si sarà sbarazzata di voi». Milady giunse le mani e, alzando i begli occhi al cielo, «Signore», disse con un'angelica soavità di gesti e di accenti, «perdonate a quest'uomo come io stessa gli perdono». «Sì, prega, maledetta!» esclamò il barone. «La tua preghiera è tanto più generosa in quanto, te lo giuro, sei in potere di un uomo che non perdonerà». E uscì. In quello stesso istante Uno sguardo penetrante si insinuò attraverso la porta socchiusa e Milady scorse Felton che si addossava rapidamente al muro per non essere visto da lei. Allora Milady si buttò in ginocchio e si mise a pregare. «Mio Dio, voi sapete per quale santa causa io soffro. Datemi dunque la forza di soffrire!» La porta si aprì adagio. La bella supplice fece finta di non avere udito e con voce piena di pianto continuò. «Dio vendicatore, permetterete che si compiano gli orribili disegni di quell'uomo!» Solo allora ella finse di udire il rumore dei passi di Felton e rialzandosi, rapida come il pensiero, arrossì, quasi si vergognasse di essere stata vista in ginocchio. «Non mi piace disturbare chi prega, signora», disse serio Felton, «perciò non disturbatevi per me». «Oh, voi siete un giusto, voi», esclamò Milady precipitandosi ai suoi piedi. «Non posso più trattenermi a lungo, perché temo che mi manchino le forze nel momento in cui dovrò sostenere la lotta e confessare la mia fede. Ascoltate perciò la supplica di una donna alla disperazione. Vi ingannano, signore, ma non si tratta di questo. Non vi chiedo che una grazia, e se me l'accordate, vi benedirò in questo mondo e nell'altro». «Parlate al padrone, signora», disse Felton. «Per fortuna non tocca a me né perdonare né punire, e Dio ha affidato questa responsabilità a uno più in alto di me. L'amico dell'infame è capace di tutto». «Chi chiamate l'infame?» domandò Felton. «Esistono dunque in Inghilterra due uomini ai quali possa convenire un simile nome?» «Alludete a Georges Villiers», disse Felton, «i cui occhi fiammeggiarono, che i pagani, i gentili e gli infedeli chiamano duca di Buckingham», riprese Milady. «La mano del Signore estesa su di lui», disse Felton, «non sfuggirà al castigo che merita». Felton non faceva che esprimere nei riguardi del duca il sentimento di esecrazione che tutti gli inglesi provavano verso colui che gli stessi cattolici chiamavano l'esattore, il concussionario, il dissoluto e che i puritani più sbrigativamente chiamavano Satana. «Mio Dio!» esclamò Milady. «Quando vi supplico di dare a quell'uomo il castigo che merita, voi sapete che non perseguo la mia vendetta personale, ma imploro la liberazione di tutto un popolo». Chiese Felton, «ma lo conoscete?» «Finalmente mi interroga», disse fra sé Milady, al colmo della gioia per essere arrivata così in fretta a un risultato così grande. «Ah, se lo conosco, sì, per mia disgrazia, per mia eterna disgrazia!» E Milady si torse le braccia quasi fosse giunta al parossismo del dolore. Felton ebbe la netta sensazione che le forze lo stessero abbandonando e fece alcuni passi verso la porta. La prigioniera, che non lo perdeva di vista, con un balzo lo trattenne. «Signore!» esclamò. «Siate buono, siate clemente, ascoltate la mia preghiera. Quel coltello che la fatale prudenza del barone mi ha tolto, perché sa l'uso che voglio farne, oh, ascoltatemi fino in fondo, quel coltello, rendetemelo solo per un attimo, di grazia, per pietà. Vi abbraccio le ginocchia, ecco, chiuderete la porta, non ce l'ho con voi, Dio, avercela con voi il solo essere giusto, buono e compassionevole che io abbia incontrato. Con voi, forse, mio Salvatore, un attimo, quel coltello, un attimo, uno solo, e ve lo restituisco dallo sportellino, un attimo solo, Mr. Felton, e mi avrete salvato l'onore». Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it